Buon pomeriggio, troppo forti, troppo superiori. Quando la Spagna gioca così c'è poco da fare. Io credo che l'Italia sia invece stata brava a farlo, quel poco che ha potuto tra il primo e il secondo gol. E credo anche, se ripensate a quelle due o tre smanacciate, ma proprio di un soffio, con la punta delle dita di Casillas, credo anche che contro un portiere meno bravo di questo, nelle uscite alte, nelle uscite profonde, al limite dell'area piccola e anche oltre, qualcosa di buono sarebbe potuto succedere. Ho presente due colpi di testa proprio che lui ha levato con la punta delle unghie, credo. Poi quando quelli hanno bissato, dunque il primo capolavoro era stato, sicuro, Iniesta, Fabregas, Silva, ed era il 14°. Quando hanno girato i numeri, da 14 hanno fatto 41, hanno azzeccato il secondo, Jordi Alba, Xavi, Jordi Alba, beh, a quel punto la resa è stata inevitabile. D'altra parte, se stamane la stampa inglese e francese, quindi neutrale, parla della Francia come parla della Spagna come della più bella nazionale di tutti i tempi, insomma, una ragione ci sarà. Poi si può discutere perché si dimenticano alcuni Brasili, qualche Italia, però è vero che i numeri possono dire questo. I numeri raccontano che è il terzo titolo consecutivo per la Spagna, cioè europei.